Italia in controluce. Italia in controluce, buongiorno da Vincenzo Miglietta. Parte in queste ore la riforma che riscrive la geografia del sistema dei tribunali. Sono destinate alla chiusura centinaia di uffici giudiziari, sulla carta 30 tribunali e altrettante procure, 220 sezioni distaccate e 667 uffici del giudice di pace. Questo sulla carta. Nella realtà le cose stanno un po' diversamente e lo scopriremo. Come sempre accade però nel nostro paese, il tutto viene accompagnato da proteste, polemiche, corteo di auto di avvocati tra Pinerolo e Torino, Melfi occupata sede della regione Basilicata, sindaci in corteo all'Elba, in Campania, apre Aversa, manca del personale a Napoli ed ancora Rossano contro il provvedimento che prevede l'accorpamento del tribunale cittadino a quello di Castrovillari, forte protesta di avvocati e cittadini. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Dicevamo delle proteste che non fermano però il governo. Una riforma avviata, lo ha ribadito negli ultimi giorni il ministro della giustizia Cancellieri. Allora possiamo ascoltare questo passaggio. La macchina amministrativa è ormai da tempo avviata, la quasi totalità dei traslochi è stata già eseguita. Un rinvio anche di breve durata produrrebbe con assoluta certezza il caos. Tutto questo ai danni dei cittadini nell'interesse dei quali la riforma è stata varata. Che il governo sta operando in linea con le indicazioni formulate dalle istituzioni europee e dalla Banca Mondiale. Fermare dunque questa riforma vorrebbe dire trovarsi di fronte al caos, dice il ministro della giustizia Cancellieri. Allora approfondiamo il tema riforma dei tribunali con la nostra inviata Raffaella Calandra, oggi a Vigevano, con lei il segretario dell'Ordine degli Avvocati di Vigevano, l'avvocato Elena Callegari. Buongiorno Raffaella, buongiorno dottoressa Callegari. Buongiorno Vincenzo, a te e ai nostri ascoltatori. Allora Raffaella, partiamo proprio con te. I numeri della riforma ho cercato un pochino di ricordarli, ma ci sono tante eccezioni, Raffaella. Sì, ci sono tante eccezioni come questa di Vigevano, che è uno degli 8 tribunali italiani che hanno avuto la possibilità di una proroga, in realtà non si capisce bene ancora per quanto tempo, se per 2 anni o se per meno, per smaltire l'arretrato. Io vorrei farvi rendere, oggi è il giorno dell'addio per tutti questi tribunali che sono stati accorpati, e la prima cosa che colpisce, io appunto sono arrivata qui a Vigevano, è proprio questa sensazione di smantellamento, scatoloni, striscioni sulla facciata, manifesti a lutto, e poi è innanzitutto il silenzio quello che colpisce, un silenzio che è anomalo per gli uffici giudiziari, che colpisce entrando prima nella procura che ha terminato ieri il trasloco, che poi nel vicino tribunale di Vigevano, appunto dicevamo nel giorno dell'addio di questa che è la sede dell'83esimo tribunale tra i 165 nazionali, è uno dei 30 tribunali accorpati dalla riforma, che dispone, come ricordavi tu, anche il trasferimento di 7.300 dipendenti e di 2.700 magistrati. Anche per questo è stata definita una riforma storica, non soltanto perché ridisegna dopo 150 anni la mappa delle circoscrizioni giudiziarie. E Vigevano, appunto, insieme alle altre 8, appunto, ha avuto la possibilità di smaltire per appunto un periodo, adesso non si capisce se 6 mesi o fino a 2 anni, sia il civile che poi il penale. Così ora è cominciata l'era della transizione con gli uffici del GIP. Qui ad esempio, ricordiamolo, si era tenuta tutta la fase iniziale del processo per il delitto di Garlasco, che sono già andati a Pavia, e nelle stanze che ho visto poco fa ora restano soltanto pochi mobili imballati pronti per il trasloco e stanze vuote che danno l'idea proprio dello smantellamento, mentre resta invece ancora qui a Vigevano la possibilità di smaltire il dibattimento sia monocratico che quello delle udienze, ma resta però un soltanto cancelliere. Questa è una delle difficoltà di questa fase di transizione, che è chiara anche nell'incertezza che gli operatori hanno vedendo le comunicazioni. Per esempio, soltanto nelle ultime ore hanno ricevuto circolari che indicano che invitano gli avvocati a non portare nelle cancellerie e fino al 30 settembre le comunicazioni se non quelle urgenti. Quindi io partirei da qui, Vincenzo, per raccontare un po' concretamente le ricadute di questa riforma anche sull'immediato sui cittadini, chiedendo proprio all'avvocato Elena Callegari, che è qui con me nel tribunale di Gevano, che cosa vuol dire, a che settimane loro si preparano. Loro hanno avuto questa circolare per cui non possono portare comunicazioni se non urgenti nelle cancellerie, quindi che succederà? Buongiorno innanzitutto e grazie della domanda. Quello che io desidero dire, preciso che questa comunicazione è arrivata con particolare riferimento alle notifiche, all'ufficio degli ufficiali giudiziari, e quindi questo cosa comporterà? Comporterà non tanto per gli avvocati, che per un periodo non avranno da lavorare in modo continuativo, ma comporterà che le persone che si sono rivolte agli avvocati non avranno un servizio, perché è vero che non è che a noi impongono di non portare comunque le notifiche e quindi di svolgere la nostra attività fino a quel periodo, ma ci invitano chiaramente a non farlo, proprio perché anche loro sono in una fase in cui stanno ristrutturando presso Pavia i vari uffici. Vuol dire che comunque il privato che ha uno sfratto, quindi il proprietario che si attende in ogni caso l'esecuzione di uno sfratto che ha già ottenuto, dovrà comunque ulteriormente differire nel tempo e quindi consentire all'inquilino, con tutti quelli che sono i disagi, di poter permanere. Comporterà anche che chi deve effettuare dei recuperi con i tempi tecnici e il periodo che stiamo vivendo, la contingenza, non potrà comunque eseguire un pignoramento presso terzi o comunque lo potrà eseguire più in là. Il timore in sostanza è che sull'immediato c'è una fase di grande confusione e quindi di incertezza, ma anche sul lungo periodo c'è il rischio di un allungamento inevitabile un po' dei tempi, considerando che se adesso Vigevano aveva un bacino di 256.000 cittadini, confluendo insieme a Voghera su Pavia è evidente, certo, che i tempi diventano diversi. Questo, ricordiamolo, è anche uno dei più grandi tribunali che sparisce insieme a quello di Sanremo. Assolutamente. Io vi interrompo un secondo per leggere alcuni sms al 349-238-6666. Devo dire che sono tutti messaggi che hanno un unico indirizzo: il governo va avanti, bisogna risparmiare, ormai si protesta sempre a prescindere, scrive Alberto da Mestre, dovrebbero abolire la facoltà di giurisprudenza ed ancora gli avvocati sono una delle peggiori lobby conservatrici del nostro paese, ed ancora sia la riforma per eliminare i rami secchi. Allora, dottoressa Callegari, non c'è proprio un approccio positivo verso la vostra professione, ma in realtà quando si interviene nelle varie riforme, potrebbe essere anche quella dei giornalisti, ogni categoria giustamente si difende, ma dunque come uscire da questa situazione? Ma guardi, non è una difesa di categoria, perché noi comunque lavoriamo e continueremo a lavorare. Però il problema è che prima, quando parlavo, non tanto del fatto che l'avvocato dovrà differire nel tempo, ma proprio che il privato non avrà per questo periodo, comunque nelle aspettative sue legittime, quella che era la giustizia. Mi riferivo a questo, perché tutti vedono che come se fosse una nostra difesa di categoria, ma se vogliamo entrare tra virgolette nel personale, io oltretutto abito e ho lo studio a metà strada tra Vigevano e Pavia, che è il tribunale nostro accorpante, per cui personalmente, come già andavo a Pavia e come comunque l'ho sempre fatto senza difficoltà, non avrò difficoltà. Sarà eventualmente il privato con la volontaria giurisdizione, comunque tutte le strutture parallele, il territorio stesso dove avevo un tribunale, che ne avrà delle perdite, degli aumenti, che ci saranno comunque dei forti danni e delle ripercussioni, certo, sull'economia. Assolutamente. Quindi, noi veniamo visti come una lobby, ma in realtà noi lavoravamo prima e continueremo a lavorare, però capisce anche che nel momento in cui dobbiamo andare a, tra virgolette, a Pavia per patrocinare una causa, dovremo applicare al cliente, al di là di quelli che sono i parametri, tutto quello che vuole, le nuove normative, però degli aumenti di costi tenendo quindi conto della trasferta. Quindi problemi organizzativi per gli avvocati, con ricadute di costi anche sui clienti. Raffaella Calandra, tu che hai girato in largo e lungo la penisola e conosci molto bene la realtà dei tribunali, così diversa da nord a sud, visto anche l'arretrato del mondo della giustizia di cui si parla tanto, è una riforma secondo te che era veramente necessaria in questo momento? Allora, è una riforma che sicuramente era necessaria ed era una riforma che, ricordiamolo, è avviata da tanto tempo, per cui adesso al ministro Cancellieri è un po' l'onere di metterla in pratica e quindi di realizzarla. Ricordiamo che è una mappa delle circoscrizioni che risale ai tempi dell'Unità d'Italia, quindi quando davvero i trasporti erano impossibili. È anche vero che le realtà da una parte all'altra di vari tribunali sono molto diversi. Qui siamo a Vigevano, che è un tribunale, come ricordavo prima, grande e che funzionava anche con una sua certa efficienza. Da altro discorso è invece le preoccupazioni che hanno in realtà come Nicosia o Mistretta o Rossano, che citavi prima, dove stanno protestando anche in modo molto animato, dove, ecco, raggiungere il tribunale accorpante significa un viaggio di non pochi chilometri, anche con, diciamo, infrastrutture che non sono le stesse che possono esserci qui tra Vigevano e Pavia. La vera sfida in realtà, Raffaella, siamo in chiusura. Il vero timore, Vincenzo, è che questa riforma della giustizia possa avere delle ripercussioni negative negli investimenti anche industriali nelle varie zone, perché sappiamo quanto una giustizia lenta allontani gli investitori. Grazie Raffaella Calandra, grazie all'avvocato Elena Callegari. Italia in Controluce termina qui, un saluto ai nostri ascoltatori da Vincenzo Miglietta.